Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. A caccia dei 12 miliardi di euro necessari per ricostruire l'Abruzzo, il censimento delle scuole lascia ben sperare, una su due potrebbe riaprire presto. E la speranza riparte anche dalla TV, da una tendopoli, riprende a trasmettere l'emittente locale, darà informazioni utili a tutti. Liberato l'italiano sequestrato in Nigeria, per lui era stato chiesto un sostanzioso riscatto. La Brown vince la gara in tribunale, sono legali diffusori dell'ultimo arrivato nella Formula 1. Ucciso nella sua villa a Posillipo il re del grano, Ambrosio, forse una tragica rapina. Il giudice non deposita in tempo la sentenza, scarcerati 21 presunti mafiosi a Bari. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. La notizia dell'ultima ora l'abbiamo data con una breaking news. È stato liberato il bergamasco Giuseppe Canova, ingegnere di 60 anni. Era stato rapito il 6 aprile scorso ad Abakakili, in Nigeria. La notizia è ufficiale. Poco fa, infatti, è arrivata la conferma della Farnesina. Giuseppe Canova era stato sequestrato mentre si stava recando al lavoro nel cantiere edile della ditta per cui lavora. Una ditta italiana, la Marlum Construction Company, impegnata nella costruzione di un complesso governativo da 11,2 miliardi di Naira, che è la moneta locale, in dollari americani oltre 75 milioni di dollari. I militanti del Movimento per l'Emancipazione del Delta del Niger, il MEND, già noti per altri riscatti, subito dopo il sequestro avevano negato ogni loro coinvolgimento nel rapimento. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, nei giorni scorsi i sequestratori avrebbero chiesto invece un riscatto da 150 milioni di Naira, un milione di dollari. Non si sa se una cifra sia stata effettivamente pagata, fatto sta che questa mattina appunto è arrivata la notizia della liberazione. Questa all'ultima ora, intanto 12 miliardi di euro, tanti serviranno e andranno trovati nelle pieghe del bilancio per ricostruire l'Aquila e l'Abruzzo dopo il terremoto. La cifra è arrivata ieri sera dal ministro Maroni sulla base delle stime del Ministero degli Interni e questa mattina anche il presidente della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, ha definito la cifra attendibile. Più avanti torneremo allora all'Aquila per raccontarvi delle inchieste in corso e della vita nelle tendopoli che prosegue. Prima però cominciamo proprio da qui, dai soldi che ora si dovranno trovare, non senza polemiche, perché ricordiamo alle associazioni di volontariato l'idea ad esempio di ricorrere anche ai fondi del 5 per 1000 non piace. Allora facciamo un po' di conti con Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, 12 miliardi di euro, ricordiamo quanto è servito per la ricostruzione di Umbria e Marche e quanto servirà per ricostruire l'Abruzzo devastato dal sisma, lo rivela il ministro dell'Interno Roberto Maroni, per il quale la tragedia però ha messo in mostra il volto migliore dell'Italia. Ma sentiamo quanto ha dichiarato Maroni ieri sera a Ballarò. Il costo della ricostruzione del terremoto in Abruzzo è stato di 12 miliardi di euro. Dell'Umbria e Marche, 12 miliardi di euro. Questa è la cifra che noi dovremo trovare per ricostruire. Ecco, riguardo a possibili infiltrazioni mafiose, dice Maroni, daremo vita ad una struttura di controllo specifica. Fra poche ore si riuniranno governo e tecnici per capire quali sono le misure disponibili o utilizzabili per far fronte all'emergenza. Ma Maroni e la Lega continuano però a dire no all'Election Day, l'accorpamento di referendum e amministrative. Sui fondi poi è polemica, come avete detto da studio, delle onlus che contestano il versamento del 5 per 1000 a favore del terremoto. Con le organizzazioni non governative di volontariato si schiera anche il Partito Democratico. Sentiamo Pierluigi Bersani. I soldi per affrontare il problema ci sono. Basta risolvere il tema dell'Election Day, fare qualche risparmio, mettere in moto qualche azione dentro il bilancio pubblico per affrontare una fase 1. Io proporrei che ci concentrassimo molto su questo. Poi viene il tema della ricostruzione, ovviamente. E lì bisogna intanto ragionare anche qui sul come e fare un piano finanziario. 5 per 1000 mi pare una cosa, come dire, poco praticabile, francamente. Mi stupisco anche della proposta che alla fine facciamo la guerra fra poveri qua. La proposta, lo ricordiamo, era era del ministro dell'economia Giulio Tremonti, ma dal Partito Democratico arriva anche un'altra critica per Dario Franceschini: il Consiglio dei Ministri all'Aquila sa molto di passerella. E per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Di 5 per 1000 di cosa ne pensano le associazioni di volontariato torneremo a parlare più avanti, e parleremo anche, vi racconteremo anche altre storie dall'Aquila. E ora invece la cronaca. Il patron della Italgrani, Francesco Ambrosio, che fu definito re del grano, è stato trovato ucciso insieme con la moglie in una villa a Posillipo. Colosso nel settore del grano, naturalmente, la Italgrani fu anche coinvolta in vicende giudiziarie. Un probabile tentativo di rapina si è concluso tragicamente in una villa situata nel quartiere di Posillipo a Napoli. Uccisi a bastonate moglie e marito, Franco e Grazia Ambrosio, rispettivamente di 77 e 73 anni. Lui è l'ex re del grano e patron dell'Italgrani. La villa, in parte in ristrutturazione, era tutta a suo quadro. Questo particolare fa ritenere agli investigatori che i coniugi Ambrosio siano rimasti vittime di una tentata rapina, ma non sono escluse altre piste. Da una prima ricostruzione dei fatti, i coniugi sembrerebbero essere stati uccisi a bastonate. Secondo un primo esame dei cadaveri, infatti, sembra che sui corpi non vi siano segni di proiettili o di coltellate. La coppia massacrata e con il cranio sfondato da un colpo violento è stata scoperta da un operaio che da giorni sta lavorando alla ristrutturazione della villa in discesa Gaiola nel quartiere Posillipo. L'uomo ha allertato il 113 e la polizia. Al momento dell'ingresso nella villa ha trovato il corpo senza vita della signora Ambrosio, vestito in un disimpegno, mentre il marito in pigiama era in cucina. L'uomo è il patron della Italgrani, noto alle cronache per un crack da oltre 1000 miliardi di lire, scoperto nel 1999. Per questa vicenda, lo scorso anno Ambrosio era stato condannato in primo grado a 9 anni di reclusione dal Tribunale di Napoli. Paolo Picone, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E da Napoli a Bari, 21 presunti mafiosi e trafficanti di droga, 8 detenuti in carcere, 13 ai domiciliari, potranno essere scarcerati presto. Il motivo? Il giudice non ha depositato le motivazioni della condanna. Giovanni Longo, è così? Sì, è così. Il giudice deposita in ritardo le motivazioni della sentenza e 21 persone, come dicevate da studio, condannate in primo grado escono dal carcere per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il processo si era concluso davanti al GUP del Tribunale di Bari il 16 gennaio 2008, quando furono condannate oltre 150 persone su 161 imputati. Con l'operazione Eclissi, questo è il nome dell'operazione, fu smantellato il clan Strisciuglio egemone in alcuni quartieri del capoluogo e dedicato allo spaccio di sostanze stupefacenti, alle estorsioni e ad altre attività criminali. Trascorso un anno dal provvedimento in primo grado e tre mesi in cui, proprio in ragione della complessità del processo e del numero degli imputati, i termini della custodia cautelare erano stati sospesi proprio per evitare la scarcerazione che invece è avvenuta oggi. Il GUP non ha fatto in tempo a depositare le motivazioni della sentenza in primo grado, 62 le pagine del solo dispositivo, così 21 persone sono state scarcerate. Per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie Giovanni Longo. E sono ancora 10 gli italiani rapiti dai pirati somali per i quali stanno proseguendo le trattative. Poco fa si è saputo che Pasquale Mulone, il marinaio di Mazara del Vallo che si trovava a bordo, uno di quelli che si trovavano a bordo del rimorchiatore sequestrato dai pirati in Somalia, ha telefonato alla moglie Giovanna Giacalone. Una notizia resa nota dal presidente della Camera Gianfranco Fini, che poco fa ha incontrato proprio la signora Giacalone nella loro abitazione in Sicilia. I pirati della costa somala continuano ad attaccare. Nella notte però un cargo americano è sfuggito alle loro grinfie, probabilmente grazie all'arrivo della marina americana. Attualmente sono ancora 300 gli ostaggi nelle mani dei pirati. Sentiamo questa mattina ospita Radio 24 il sottosegretario Alfredo Mantica. La nostra nave maestrale ha sotto controllo, diciamo, la nave, dopodiché i contatti avvengono nella maniera che deve avvenire in una realtà clanica, quindi ulteriormente difficile, però tutto è stato fatto perché i contatti siano creati e quindi si avvii una trattativa. Questo mi pare si sia arrivati a un punto nel quale non si può più continuare come prima, questo mi pare abbastanza certo. Noi abbiamo una missione che si chiama Atalanta dell'Unione Europea, di cui fa parte Maestrale, e ovviamente prima occorre un maggior coordinamento. È una funzione che deve avere nuovi caveat, cioè nuovi ordini di intervento, nuove possibilità di manovra. Il problema è anche sulla terra, ci sono anche come dire, canali finanziari che dovrebbero essere a questo punto bloccati. E voltiamo pagina, perché questa mattina è arrivata anche la sentenza più attesa per il mondo della Formula 1, nulla da fare, diciamolo subito, per la Ferrari e con lei per Renault, Red Bull e BMW. La federazione della Formula 1 ha dichiarato infatti regolare la nuova tecnologia vincente della Brown. La banda del buco, come previsto, l'ha fatta franca. La Corte d'Appello della FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobilismo, ha deciso che i diffusori montati da Brown GP, Toyota e Williams sono conformi al regolamento, respinto così il reclamo presentato da Ferrari, Red Bull, Renault e BMW Sauber. Il reclamo era basato sulla dimensione e forma della parte terminale delle vetture situato sotto l'alettone posteriore. Si legge in una nota della FIA che, dopo aver ascoltato gli argomenti e le prove presentate, la Corte ha concluso che gli ufficiali hanno correttamente giudicato che le monoposto in questione rispettano le regole vigenti. Sono quindi confermati i risultati dei primi due Gran Premi di Australia e Malesia, con Jason Button vincitore delle prime due gare, che rimane leader del mondiale con 15 punti, 5 in più rispetto al suo compagno di squadra Rubens Barrichello. Alla Ferrari, che nel frattempo erano già iniziate le depurazioni per i guai al muretto dei box con la sostituzione di Luca Valdisseri con Chris Dyer, ecco quindi presentarsi un'altra rincorsa contro il tempo per poter provare e costruire anch'essa dei diffusori simili a quelli della Brown, che sicuramente hanno un grande vantaggio sulla downforce, cioè l'effetto a suolo. Ma come sono nati questi diffusori? È una tipica storia inglese. Li aveva studiati un tecnico aerodinamico francese, Vasselon, che lavorava in Honda, poi divenuta Brown GP, che li ha adottati. Lui è passato alla Williams, che è motorizzata Toyota e che ovviamente ha ricevuto lo scambio di cortesie e disegni da parte della Williams, ed ecco formata la banda del buco. Ora bisognerà vedere chi, nel fine settimana, in Cina, riuscirà a presentarsi con una nuova aerodinamica. La Ferrari non lo dice, ma li sta già provando da tempo. Patrizio Cantù, GR24, il Sole 24 Ore. E intanto sono ore d'attesa per un altro simbolo del Made in Italy. Parliamo della Fiat, che ha firmato un protocollo d'intesa con l'americana Chrysler. Il Lingotto ha ribadito proprio questa mattina che non ci saranno nuovi capitali da iniettare in Chrysler, però Fiat è disposta a fare molto per rilanciare il gruppo automobilistico americano, compreso, e quello di cui si parlava nei giorni scorsi, proporre Sergio Marchionne come amministratore delegato della casa di Detroit. Ci sono però delle altre condizioni in ballo che riguardano i sindacati. Ne parliamo con il collega del Sole 24 Ore, Andrea Malan. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. L'accordo con Chrysler passa attraverso la questione dei sindacati in America. Potrebbe allontanarsi a questo punto? Beh, diciamo che i sindacati sono uno dei fattori in gioco. La Chrysler sta trattando sia con loro che con i suoi creditori. Sono alcune grandi banche che cui Chrysler deve quasi 7 miliardi di dollari. L'obiettivo è convincere entrambi, sindacati e creditori, entro il 30 aprile ad accettare una consistente sforbiciata ai rispettivi diritti, alle rispettive pretese. Come premessa, sia all'accordo con Fiat che all'accordo con il governo americano, soprattutto, che è quello che dovrà mettere i soldi, che dovrà garantire a Chrysler cospicui finanziamenti. Si è parlato finora di 6 miliardi di dollari, ma può darsi che ne servano di più, che sono essenziali anche per l'intesa con la casa italiana. Ricordiamo che Fiat finora ha sempre ribadito che non ha intenzione di mettere direttamente soldi in Chrysler, ma solamente di fornire tecnologie, quindi i finanziamenti per il rilancio dovranno venire dal contribuente americano. Grazie ad Andrea Malan. E intanto, sul fronte della crisi, non in America ma in Svizzera, la UBS, la prima banca svizzera, ha annunciato oggi un programma di contenimento dei costi che prevede 8.700 licenziamenti entro il 2010. La crisi, ricordiamo, aveva già fatto annunciare allo stesso istituto elvetico altri 11.000 posti di lavoro da tagliare. E tagli in vista anche per l'Air France, che come molte compagnie aeree dall'inizio della crisi ha visto ridursi i volumi del traffico. In questo caso si parla di 2.500 posti di lavoro nei prossimi due anni. E in Italia oggi giorno della firma per il nuovo modello contrattuale. Sarà siglato questa sera da Confindustria e sindacati, con l'eccezione della CGIL. Prevede, ricordiamo, un modello unico per privato e pubblico, durata triennale tanto per la parte economica quanto per quella normativa, assetto su due livelli e calcolo dell'incremento salariale con un nuovo indice di inflazione che manda in soffitta quella programmata. Firma prevista per le 19. Abbiamo parlato del Made in Italy a proposito di Ferrari e Fiat. Se ne parla anche attraverso una nuova campagna di comunicazione che mescola calcio e il Ministero per lo sviluppo delle attività produttive. Sentiamo. Buffone, Zambrutta, Grasso, Grattuso, Tepossi, Scassano, Poni, Del Pierrot, Pirlotta. I nomi storpiati dei giocatori della nazionale di calcio sono lo slogan della campagna di comunicazione avviata su radio, TV e carta stampata contro la contraffazione. Il ministro Claudio Scajola intende convincere che l'acquisto di prodotti all'apparenza identici ma molto meno costosi nuoce molto all'economia, al lavoro e alla fine alle tasche stesse dei consumatori. E lo fa con un testimonial popolarissimo, Marcello Lippi, che abbiamo appena ascoltato. Una sensibilizzazione necessaria, fa sapere il ministro dello sviluppo economico, visto che la contraffazione, oltre ad alimentare la criminalità organizzata, ha determinato negli ultimi 10 anni la perdita di 40.000 posti di lavoro, con un mancato introito fiscale di oltre il 21% dell'IVA e di più dell'8% dell'IRPEF. Uno schiaffo al Made in Italy che si cerca di contrastare. Nel solo settore moda nel 2008 sono stati sequestrati oltre 12 milioni e mezzo di prodotti falsi, il 50% in più rispetto al 2007. Ma non basta. Così arriva lo spot che storpia i nomi dei campioni. Un caso di contraffazione che sarà riconosciuto dagli italiani al primo colpo. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:19 minuti, GR24 Extra Large. E nella prima parte abbiamo parlato della liberazione dell'italiano che era stato rapito in Nigeria, Giuseppe Canova, l'ingegnere di 60 anni per il quale era stato chiesto un sostanzioso riscatto. A Napoli si indaga dopo il duplice omicidio che ha visto coinvolto Francesco Ambrogio e la moglie, il re del grano, patron della Italgrani, che fu coinvolta anche in vicende giudiziarie. Sono stati trovati morti con il cranio fracassato, probabilmente a colpi di bastone. E poi, per quanto riguarda la situazione, la crisi economica, abbiamo parlato dei tagli della UBS, 8.700 posti di lavoro, della Air France, che invece prevede di tagliare 2.500 posti di lavoro nei prossimi 2 anni. Le decisioni per quanto riguarda i regolamenti della Formula 1. Adesso invece tutte le notizie per quanto riguarda il terremoto d'Abruzzo. E nelle ultime ore le scosse di terremoto non hanno dato ancora tregua. La più intensa ieri alle 22:17, magnitudo 4.1, quindi ancora una scossa decisamente forte. Questo mentre procedono gli accertamenti sull'agibilità delle case, attorno al 50%, una su due potrebbero essere presto dichiarate agibili. Queste le prime indicazioni che arrivano dalla Protezione Civile, che però continua i suoi controlli. E parte ormai ufficialmente anche l'inchiesta della magistratura sull'accertamento di eventuali responsabilità. Ci sono i primi testimoni pronti a farsi ascoltare dalla procura, e allora cominciamo da qui facendo il punto. Bisogna fare chiarezza per le vittime e i loro parenti. Il procuratore capo dell'Aquila, Alfredo Rossini, lo va ripetendo dalle prime ore dopo il disastro. Senza attendere denunce si è mosso d'ufficio insieme al PM Fabio Picuti ed ha aperto quella che si preannuncia come una maxi inchiesta. Le accuse restano di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Nessuno è indagato. Adesso si deve capire perché edifici pubblici come la prefettura e la casa dello studente si siano sbriciolati e strutture recentissime come l'ospedale San Salvatore siano state dichiarate inagibili subito dopo la scossa del 6 aprile. Nei prossimi giorni saranno sentiti i primi testimoni. Tra questi Carmela Tomassetti, la studentessa che una settimana prima del sisma aveva messo in guardia i colleghi sulla stabilità della casa dello studente, dove avrebbero perso la vita 8 ragazzi. Carmela è pronta a ripetere ai magistrati che quel palazzo era inagibile e che nessuno ha voluto ascoltare l'allarme che aveva lanciato. Oltre all'aspetto della sottovalutazione del rischio, Rossini ed il suo pool di periti stanno studiando anche la storia dell'edificio, restaurato nel 98 e poi altre 3 volte tra il 2003 e il 2005. Dalle carte già acquisite, una documentazione imponente, custodita in container chiusi a chiave alla periferia dell'Aquila, i magistrati tenteranno di capire di chi siano, se esistono, le responsabilità del disastro. Nei capannoni che fanno da deposito provvisorio della procura ogni giorno si aggiungono nuovi reperti, che arrivano dalle case private dove ci sono state più vittime, ma anche dall'ospedale. Gli esperti, dopo i primi sopralluoghi, hanno già rilevato l'assenza delle staffature nei pilastri. Massimo Di Cenza, GR24, Il Sole 24 Ore. E intanto oggi è attesa all'Aquila il ministro dell'istruzione Gelmini. Il calendario scolastico dell'Abruzzo, naturalmente sconvolto dal terremoto, prevede che le scuole possano riaprire il prossimo 16 aprile. Proprio sulla condizione degli edifici pubblici, in particolare delle scuole, stanno lavorando tecnici delle università italiane. E ne parliamo con il professor Gaetano Russo, professore di tecnica delle costruzioni dell'Università di Udine, che sta coordinando un gruppo di ingegneri strutturisti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura che stanno anche in questi minuti facendo i controlli all'Aquila. Buongiorno. Buongiorno. Voi state controllando in particolare le scuole dell'Aquila. Qual è in questo momento, dai primi controlli, il quadro che avete ritrovato? Ma il quadro ha, diciamo, quadro generale c'è davanti soltanto la RELUIS, che è la rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica, e diciamo che è una rete nazionale di cui noi facciamo parte, in quanto l'Università di Udine ha avuto da RELUIS un compito di ricerca nel triennio scorso, il quadro generale. Ma ieri comunque abbiamo visto, il mio gruppo ha visto una scuola materna molto importante, un asilo nido, e sono stati dichiarati inagibili. E poi anche in generale però di quante scuole che potrebbero presto riaprire, ecco, si 400 parla? Sono 400 scuole in tutta la provincia dell'Aquila, quindi 400 scuole, ci sono circa 80 universitari, tra professori, ricercatori e dottori e dottorandi di ricerca, tutti sempre sotto questa rete di cui ho detto prima, e questi 80 professori e ricercatori hanno il compito appunto di visitare queste 400 scuole, 400 scuole che sono l'obiettivo del premier Berlusconi di farle aprire quanto prima, insomma, almeno ho notizie che il 18 vorrebbero il quadro generale, il governo vorrebbe il quadro generale, quindi è che il 20 dovrebbero già essere aperte le prime scuole. Di queste appunto alcune sono in buone condizioni, ho notizie che circa il 30-40% dovrebbero essere agibili già da subito, altre dovrebbero essere agibili solo con provvedimenti e interventi, piccoli interventi, ma una parte è sicuramente inagibile. Oltre le scuole naturalmente c'è interesse, ieri i miei hanno fatto il certificato di agibilità per una farmacia comunale, che appunto è uno degli elementi, degli edifici strategici, come si vuol dire, ed era particolarmente strategica per tutta la città dell'Aquila. Senta professore, però c'è una questione anche che ci chiediamo, no? Perché gli edifici che voi state valutando saranno agibili anche rispetto alle forti scosse di terremoto che ci sono ancora sul territorio? Se la scossa di terremoto è inferiore a quella che è già la massima che si è verificata il 6 aprile, noi ci prendiamo responsabilità. Noi, i nostri tecnici, i miei collaboratori, molti sono dottorandi miei, fanno parte del mio gruppo di ricerca, e così anche gli altri universitari di tutta Italia, che stanno girando, si prendono la responsabilità, infatti firmano questi certificati di agibilità. Se la scossa dovesse essere superiore, chiaramente noi non, questa è più una competenza del geologo, del quindi sismologo. Voi date questo limite. Noi diamo questo limite, nel senso che firmiamo se la scossa arriva fino a questo limite. Se è presto per dirlo, ovviamente, perché siamo ai primi controlli, però secondo lei ci sono negli edifici che voi state controllando non conformità secondo quel che sta cercando la procura dell'Aquila? Sì, secondo me ci sono, perché anche dai rapporti che i colleghi hanno messo anche sui sito si vede che ci sono delle non conformità, perché è vero che la legge sismica ultima è quella non dico buona, insomma quella aggiornata, quella la migliore, tra le migliori esistenti, ma già anche prima esistevano leggi sismiche, anche prima occorreva controllare gli edifici. Sostanzialmente ogni giorno di getto di calcestruzzo di regola è previsto che si prelevi il calcestruzzo con cui si fanno i pilastri e le travi. Ogni giorno che si gettano pilastri, travi e solai, bisogna prelevare questo calcestruzzo. Ora, se il prelievo non viene fatto, non è noto quanto è la resistenza di quella. E quindi, secondo lei, comunque quegli edifici non sono, quelle scuole non sono state costruite a norma? Sì, secondo me ci sta un qualche problema di materiale. C'è qualche problema, sicuramente non sono state rispettate tutte le norme allora vigenti. Non c'è dubbio, perché chiaramente per fare un edificio bene, occorre fare un buon progetto fatto da un ingegnere esperto, ma occorre anche realizzarlo bene. Occorre che il collaudo sia fatto, perché poi alla fine interviene il collaudatore che controlla tutti i certificati sui materiali. Ora, se questo controllo non è stato fatto, o è stato fatto un po' alla leggera, allora è evidente, perché il collaudatore ha in mano tutti i certificati sui materiali, tutte le prove che sono state fatte nei laboratori, ci sono dei laboratori ufficiali in tutto il territorio nazionale e anche dei laboratori autorizzati dal Ministero. E quindi insomma pubblici. La regolarità non c'è. Non è una quindi, vicenda che naturalmente possiamo concludere ora. Ci fermiamo qua, grazie al professore Gaetano Russo, docente di tecnica delle costruzioni a Udine, che sta coordinando questo pool di esperti. Dicevamo 12 miliardi di euro per ricostruire dopo il terremoto, è la cifra data dal ministro Maroni. Su come reperire queste risorse, il dibattito naturalmente è aperto. Sappiamo della questione del 5 per 1000 contestata dalle associazioni di volontariato. Poco fa la dichiarazione del ministro Tremonti, la destinazione del 5 per 1000 anche ai terremotati, ha detto al TG5 Tremonti, è un fatto soprattutto simbolico, non è questo lo strumento per aiutare a ricostruire. Su questo sentiamo l'intervista che Paolo Piacenza ha fatto a Paolo Beni, presidente dell'ARCI, membro del coordinamento del forum del terzo settore. Rischia di essere anche una scelta abbastanza inefficace, perché vorrei ricordare che le associazioni stanno ancora aspettando i fondi del 2007 e quindi di questo passo la scelta dei contribuenti che pensano così di sostenere le popolazioni colpite dal terremoto rischierebbe di prodursi in un aiuto economico che avrà concretezza nel 2011, quindi non credo che sia questa una misura efficace per risolvere questa emergenza. Emergenza che d'altra parte vede impegnate in prima fila fin dal primo giorno proprio quelle associazioni che riescono a fare tante cose, riescono ad intervenire con prontezza e con efficacia anche grazie al sostegno che hanno dal 5 per 1000. Quindi in qualche modo è un po' un gioco dei barattoli questo, che non sposta risorse vere, fresche, come ha detto il Presidente del Consiglio, per affrontare questa emergenza, ma rischia semplicemente di togliere delle risorse dall'assistenza sociale, dalle tante azioni di solidarietà che il mondo del volontariato e del terzo settore è impegnato a portare avanti. Non credo che si possa risolvere così il problema, penso che questo mondo deve, sulla base di una scelta di sussidiarietà che è stata fatta, poter continuare a contare su queste risorse che sono indispensabili per la lotta alla povertà, al disagio sociale nel nostro Paese e che al tempo stesso, attraverso altre forme, vadano trovate risorse nuove per indirizzarle insieme allo sforzo che le associazioni di volontariato stanno facendo alla ricostruzione in Abruzzo e al sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto. 13:36 minuti, torniamo con Extra Large le notizie di oggi. A caccia dei 12 miliardi di euro necessari per ricostruire l'Abruzzo, il ministro dell'economia Tremonti dice il 5 per 1000 è solo un contributo simbolico. Intanto il censimento delle scuole lascia ben sperare, una su due potrebbe riaprire presto e la speranza riparte anche dalla TV, da una tendopoli riprende a trasmettere l'emittente locale dell'Aquila. Liberato l'italiano, l'ingegnere bergamasco di 60 anni sequestrato in Nigeria, per lui era stato chiesto un sostanzioso riscatto. È arrivata l'attesa sentenza della Formula 1 e la Brown ha vinto la gara in tribunale. Sono legali i diffusori dell'ultima arrivata nella Formula 1. Giallo a Napoli, uccisi nella loro villa a Posillipo il re del grano Ambrosio e la moglie, forse una tragica rapina. Il giudice non deposita in tempo la sentenza e a Bari sono tornati liberi 21 presunti mafiosi. E all'Aquila proseguono i controlli degli edifici, come dicevamo, oggi saranno censite le scuole. Ieri, tra le abitazioni sottoposte a verifica, la quota degli alloggi non più agibili è salita dal 30 al 45, quasi 50%, in media dunque uno su due di quelli controllati. L'obiettivo per l'autorità è quello di far lasciare le tende, gli alberghi agli sfollati prima dell'arrivo dell'inverno. Dunque si sta chiudendo in qualche modo quella che è stata definita la fase 1, si tenta piano piano di tornare alla normalità, piccoli passi. Allora andiamo all'Aquila, Daniele Morini, buongiorno. Sì, ecco, nei giorni scorsi abbiamo raccontato più volte le storie dell'emergenza, no? Fin dalle prime ore, quando si scavava ancora sotto le macerie per provare a trovare vittime dei crolli che fossero ancora in vita. In queste ultime ore, invece, allentandosi appunto la morsa un po' dell'emergenza, riusciamo anche a raccontare storie che in qualche modo si riferiscono a quelle prime ore e che in quelle prime ore non era possibile raccontare perché chi era impegnato nel soccorso era davvero in prima linea. Allora abbiamo voluto raccogliere proprio in queste ultime ore le testimonianze di una tipologia di soccorritori molto particolare. Sono gli uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, quelli che in particolare nelle prime ore dell'emergenza riuscivano a raggiungere le persone sotto le macerie scavandosi cunicoli per poi estrarle vive o, nella peggiore delle ipotesi, purtroppo estrarre solo i corpi delle vittime. Allora sentiamo la ricostruzione di quelle prime ore nel racconto che abbiamo raccolto da Alberto Nardi, Stefano Galletti, che sono appunto due volontari del soccorso alpino abruzzese, e dal loro coordinatore Alfonso Ardizzi. Sentiamo. Sono Alberto, abito nell'immediata periferia della città. Appena sentito la scossa mi sono recato sulle scale perché sentivo le persone gridare. Ho aiutato una ragazza a scendere nel buio e scendendo mi sono reso conto che alcune pareti erano molto lesionate. Allora, secondo me era seria la situazione, sono rientrato dentro a recuperare un po' di materiale tecnico, il casco, l'imbrago. Sono andato subito dentro il paese a Paganica, da dove mi sono accorto che era crollato quasi tutto. La parte vecchia del paese era venuta giù quasi tutta. E mi sono fatto un giro incontrando tutta la gente per strada che mi ha fermato, insomma, mi diceva chi era rimasta la madre sotto le macerie, chi il fratello, e mi sono dato subito da fare, insomma, per dare una mano a soccorrere queste persone. Cioè, sono delle squadre specializzate, diciamo, per interventi particolari. I nostri tecnici, 19 tra alpini e speleo, presenti qui nella città, fino a che non si è messa in moto la macchina dei soccorsi, in qualunque quartiere della città o frazione loro risiedevano, hanno lavorato ininterrottamente fino al nostro arrivo. Arrivati lì, stavamo io e un mio amico, ci hanno portato nei punti dove ci segnalavano che ci stava gente sepolta sotto. Il coordinamento ci ha mandato a lavorare su un sito, era una palazzina, mi sembra, di 4 piani, completamente crollata. E, purtroppo abbiamo cominciato a trovare quasi da subito le prime vittime, e qualcuna viva. Si valutava se, insomma, se era il caso di scavare o se passare avanti, perché dove c'era la persona viva sotto, che era possibile che era viva, ci siamo messi a lavorare per tirarla fuori viva. Il primo turno è stato molto lungo, una trentina di ore ininterrotte, poi abbiamo cominciato ad alternarci turni di riposo e turni di lavoro. La condizione è stata molto difficile, soprattutto quando sono cominciati ad arrivare i genitori dei ragazzi. I nostri ragazzi, che questi giorni sono stati definiti gli angeli del Gran Sasso, sono ragazzi che di anno in anno acquisiscono una preparazione tecnica sempre, sempre più notevole, però anno dopo anno ci hanno tagliato e dimezzato i fondi, fino a che per alcuni settori quest'anno, 2009, purtroppo abbiamo avuto zero. E grazie anche a Daniele Morini per questa corrispondenza, per questo racconto dall'Aquila. A proposito di soccorsi e di aiuti, c'era stata la polemica sulla puntata di giovedì scorso di Anno Zero, nella quale Michele Santoro e i suoi inviati avevano messo in discussione l'operato della Protezione Civile. Bene, la decisione della RAI è arrivata proprio in questi istanti. Il direttore generale della RAI, Mauro Masi, ha chiesto a Michele Santoro che sin dalla prossima puntata di Anno Zero siano attivati i necessari e doverosi riequilibri informativi, specificatamente però in ordine ai servizi andati in onda dall'Abruzzo, non per quanto riguarda il dibattito in studio di giovedì scorso, che evidentemente quello viene giudicato equilibrato. E a riparlare con la propria voce televisiva in qualche modo da oggi nuovamente anche l'Aquila. C'è anche questo da ricostruire tra le attività che riprendono: quella della voce televisiva dell'Aquila. Tivo 1 riprende le trasmissioni da oggi, l'emittente ha trovato sistemazione provvisoria in una tendopoli nel campo di Murata Gigotti a Coppito. E allora ci colleghiamo con questo campo e con Josafat Capulli, giornalista e direttore editoriale di TV1. Buongiorno. Buongiorno. buongiorno a voi. Allora, tra l'altro c'è da dire che la vostra TV ha compiuto 20 anni proprio nei giorni... Il giorno del terremoto, quindi una coincidenza davvero incredibile. Adesso in che condizioni sono le vostre strutture, gli edifici da cui cercate di ripartire? Le nostre strutture sono dimezzate, però le abbiamo messe in sicurezza, cioè in altri luoghi, dei ponti mobili, alcune attrezzature. Ho rimontato una televisione in tempo record, diciamo così. L'ho rimontata nel cuore della ricostruzione, cioè qui ha colpito Murale Gigotti, paese storico, quarto fondatore della città dell'Aquila, e da questo pomeriggio siamo operativi e facciamo TV di servizio e di servizi. Cioè, in due parole, quello ci stiamo preparando perché quando i riflettori della grande stampa nazionale poi si spegneranno su di noi, ecco, il nostro compito sarà quello di continuare questa battaglia per la ricostruzione. Qui i campi, la gente, noi copriamo che sono 20 anni in questa nostra realtà, sentiamo solo una grande voglia di ricostruzione. Siamo molto grati a tutta l'Italia, a tutto il mondo per la solidarietà che ci hanno manifestato in tutti i modi. Quale sarà la prima notizia che darete? La prima notizia che daremo è: bisogna ricostruire. Io ho mandato, avendo anche un database TV1 con 10.500 numeri di cellulare, abbiamo inviato un messaggio a tutti i nostri concittadini attraverso SMS, anche coloro che adesso stanno sulla spia, sulla costa e stanno rientrando per attrezzarci per la ricostruzione. E proprio per la ricostruzione, dico bene, perché la prima emergenza ormai è finita, siamo ecco, già alla seconda fase. A proposito di questo, Capulli, le chiediamo, anche per darci una misura di quanto tempo ci vuole per riprendere tutte le attività della vita normale, insomma, voi la vostra fase di emergenza come TV1, quando pensate di concluderla? Tempo un mese, noi abbiamo gli studi originali, tempo un mese, negli studi di... Noi avevamo uno studio, ce l'abbiamo ancora a dire il vero perché è rimasto in piedi, anche se è in parte inagibile, nel baricentro del sisma, cioè tra Onna, Paganica, San Gregorio, e intorno a noi la devastazione. Però vogliamo dare noi di TV1 dell'Aquila, agli aquilani che ci hanno permesso di stare in vita per 20 anni, un segnale di speranza e di futuro. Vi vedranno in tutte le tendopoli? Ci vedranno in tutte le tendopoli e anche sul web in Mondovisione Live. Abbiamo riattivato anche il servizio web, noi andiamo sul web live 24/24. Il vostro sito, così lo diamo anche ai nostri ascoltatori? www.tv1aq.tv, tutto in lettere. Grazie, allora Joseph Capulli. Grazie a voi. Buon lavoro. In diretta dalla tendopoli, davvero. E alle 13:47 minuti, lasciata l'Aquila con GR Extra Large, torniamo alle altre notizie di oggi. Eh sì, abbiamo dedicato una lunga pagina anche oggi al terremoto, le notizie, 12 miliardi di euro per ricostruire. Poco fa il ministro Tremonti ha detto il 5 per 1000 sarà solo un eventuale intervento simbolico. Nella prima parte di Extra Large ci siamo occupati anche della vicenda dell'italiano, il bergamasco di 60 anni che era stato rapito in Nigeria e che fortunatamente è stato liberato. La Farnesina lo ha confermato poco fa ringraziando le autorità nigeriane. A Napoli invece si indaga per il duplice omicidio che ha coinvolto Francesco Ambrogio e la moglie, lui il re del grano, il patron della Italgrani, che fu coinvolto anche con la sua azienda in vicende giudiziarie. E quello che vi raccontiamo oggi è un primo esperimento che arriva da Roma, esperimento di un registro di testamento biologico. In attesa della legge sarà aperto a tutti i residenti del 10° municipio della capitale che vogliano depositare le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari. Il medico sarà obbligato a rispettarlo, compreso il rifiuto dell'alimentazione forzata, fino a quando non interverrà un'apposita legge. E allora Paolo Anani è andata per noi questa mattina a vedere cosa succede e ha intervistato Sandro Medici, presidente appunto del 10° municipio della capitale. Lo abbiamo inaugurato mercoledì scorso, ma diciamo più che altro simbolicamente, perché abbiamo raccolto la prima firmataria che era la signora Mina Welby. Da oggi ogni mercoledì per 2 ore, dalle 15 alle 17, noi mettiamo a disposizione questo sportello per chi desidera registrare, depositare il proprio testamento biologico. Testamento che ha validità per quanto? Ha validità fino a quando il firmatario non decide di ritoccarlo o di non più riconoscerlo. Questa documentazione ha valore in assoluto, almeno fino a quando, diciamo, non intervenga una legge che appunto perfezioni o addirittura abolisca questa possibilità. Questo registro ha valore legale, nel senso un medico deve rispettare le volontà depositate in questo registro, è obbligato? Sì. Chi può iscriversi a questo registro? Tutti i cittadini residenti a Roma. Questo dunque Sandra Medici, presidente del 10° municipio di Roma, intervistata dalla nostra Paola Nania. E da Roma andiamo invece a Torino, dove è stata presentata oggi la Fiera del Libro. Ci sarà anche Radio 24. Alessandra Tedesco. Eh sì, anche quest'anno c'è qualche polemica per la scelta del paese ospite, scelta che peraltro era nota da quasi 2 anni. Il paese è l'Egitto e le polemiche arrivano ancora una volta dal forum Palestina, vicino ad ambienti di estrema sinistra. L'anno scorso la contestazione riguardava Israele, accusato di fare una politica aggressiva nei confronti dei palestinesi, quest'anno l'Egitto, considerato complice dell'assedio di Gaza. Ma ecco come il presidente della Fiera del Libro, Rolando Picchioni, replica all'ipotesi di boicottaggio. Al di là delle polemiche, saranno presenti proprio i contestatori della fiera dell'anno scorso, come Tariq Ramadan e Alan Papay, che è uno dei massimi, dei più radicali contestatori della politica di Israele dal 1948. Per cui siamo una realtà plurale, non solamente culturale, ma la plurale. E questo lo rivendichiamo con orgoglio, con forza e con determinazione. Fra gli altri ospiti di prestigio che saranno presenti in fiera dal 14 al 18 maggio, segnaliamo Salman Rushdie, che presenterà il nuovo romanzo, il novella turco Ram Pamuk, l'israeliano David Grossman, scrittore molto amato in Italia. Ci sarà anche il cinese Yu Hua, ma anche la giallista spagnola Alicia Jimenez Bartlett. Infine una chicca, ci sarà John Simenon, che ricorderà il padre George. Prima di chiudere vi ricordo l'iniziativa di Radio 24, Io in un libro, in collaborazione con la Fiera del Libro di Torino. Vi stiamo chiedendo in quale libro vi siete maggiormente identificati. Mandate le vostre mail a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Ogni settimana ne sceglieremo una che verrà premiata con 2 ingressi gratuiti alla fiera. L'appuntamento è come sempre con Il Cacciatore di Libri il sabato alle 8:24 e in replica il venerdì alle 21:05. Da Torino è tutto, a voi la linea. Grazie Alessandra Tedesco e bentornata con noi a Giulia Crivelli. Buongiorno. Buongiorno. L'appuntamento con te è quello coi giornali stranieri. Allora, cominciamo dalla Francia oggi, ne parliamo poco. Sì, la Francia oggi ha moltissimi giornali, tra cui Le Figaro, che è un po' il più diffuso, il giornale simbolo della Francia, se vogliamo, insieme a Le Monde, che invece è più a sinistra, e che ha un'apertura a 6 colonne, quindi tutto lo spazio che c'è in prima pagina, con una grande foto sulle vicende delle navi rapite nel Golfo di Aden. Sappiamo che i francesi una delle loro vicende l'hanno risolta in modo abbastanza drastico e con successo, ma la domanda è come affrontare questo problema, se persino si chiede, per esempio, Le Figaro, Obama, che ormai è l'uomo del dialogo, l'uomo che parla con tutti, anche con i nemici di ieri, alla fine ha dato l'ok, perché l'ok sarà stato sicuramente suo all'operazione, che è stata sicuramente un'operazione chirurgica, ma per nulla di dialogo, che ha poi portato alla liberazione del capitano della nave sequestrata. Quindi è tutto da vedere quale sia il metodo migliore. Forse il problema è che non si sa con chi eventualmente instaurare un dialogo per evitare metodi troppo di forza. E ora con il Washington Post, insomma, ieri Obama ha tenuto un discorso anche importante, però poi a volte alla storia passano le cose più curiose e anche più stupide, forse. Bellissimo, beh, insomma, quando guarda, io per me le storie di cani e di gatti sono sempre bellissime, e questa volta naturalmente è il First Dog, e il Washington Post, che è il quotidiano della capitale, forse quello che segue più da vicino Obama, ha fatto un po' la scelta che ha fatto anche il Sole 24 Ore, cioè di mettere in prima pagina una bella foto di Obama con il nuovo cane, questo simpaticissimo Bo, che ha l'aspetto un po' di un barboncino nero, e la foto vede Obama che abbraccia la figlia più grande, quella più piccola sta un po' in disparte, stanno facendo questa piccola passeggiata, la prima passeggiata del first dog. Poi naturalmente c'è spazio di spalla per il discorso importante che ha fatto Obama, dicendo che forse c'è qualche segnale di ripresa dell'economia, e questo naturalmente detto da lui ha un peso molto importante, quindi in realtà l'apertura del giornale è quella, però corredata dalla foto del cane. E quindi Massimo, in fin dei conti, sta appassionando davvero, e non solo in America. Grazie, a Giulia voi. Crivelli. Noi in America però restiamo, non questa volta con Barack Obama, ma con Bob Dylan. Il 24 aprile prossimo uscirà il nuovo album intitolato Together Through Life, ma il pubblico italiano potrà avere intanto un primo assaggio di alcune delle nuove canzoni nei 3 concerti che il grande musicista americano terrà in Italia. Il primo è questa sera, appuntamento al Forum di Assago di Milano. Together Through Life, insieme attraverso la vita. E questo è il titolo del nuovo album che il menestrello del rock, 68 anni il prossimo 24 maggio, presenta da questa sera in Italia per 3 sole repliche. Oggi a Milano al Forum di Assago, il 17 a Roma al Pala Lottomatica e il 18 a Firenze al Mandela Forum. Il tema di fondo è l'amore in tempi difficili. Il sound rievoca gli anni 50. Mi piace l'atmosfera e l'intensità dei dischi di quell'epoca, ha dichiarato Bob Dylan. È come viaggiare alla scoperta di se stessi. 10 le canzoni per questo suo 46esimo album autoprodotto che lui stesso ha definito romantico. Dall'esordio nel 1962 Bob Dylan ha venduto oltre 110 milioni di dischi e si è esibito in migliaia di concerti in tutto il mondo. In quello di stasera, nuova tappa del suo tour mondiale, la scaletta dei brani sarà come sempre a sorpresa. E gli appuntamenti del grande Bob proseguiranno in altri paesi europei per chiudere il 6 maggio a Dublino in Irlanda. Ma il 12 agosto, al rientro negli Stati Uniti, nuovo appuntamento con Bob Dylan a New York per un mega concerto al Prospect Park di Brooklyn. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large è tutto per questa edizione. Alessio Maurizio e Anna Migliorati in studio, Daniele Biacchessi al coordinamento, Peter Bescapè in regia alla parte tecnica. Vi ricordo che ancora una volta anche oggi la pagina speciale dall'Aquila si riaprirà alle 18 con un lungo speciale. Extra Large torna domani a partire dalle 13. Buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.